24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci, cari ascoltatori, le 7.21 in punto, in questo istante, buongiorno e ben ritrovati, riparte una settimana di 24 mattino, siamo anche nella nostra pagina Facebook, così ci trovate, 24 mattino, saluto il nostro alpino, Peter Bescapè, è tornato in regia. E allora, il menù del giorno, oggi parleremo del dopo manifestazione della Lega, avremo il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ospite nostro alle 8.20 tra un'ora. Parleremo anche, vi avevamo promesso, se troveremo coloro che nella casta hanno fatto ricorso contro il taglio ai vitalizi, ve li faremo sentire. Ne abbiamo trovato uno, l'onorevole Roberto Rosso, che ha detto, è vero, ho fatto ricorso contro il taglio previsto per i vitalizi. Sarà nostro ospite alle 8.30 insieme ad altri ospiti, parleremo dunque di questa vicenda, la casta che fa ricorso e giudicheranno chi? Colleghi parlamentari. Ne parleremo più avanti, ora che cosa ci propongono i giornali andiamo a sfogliarli. E questo il lunedì 23 gennaio, intanto i titoli di apertura praticamente catalizzati dal nuovo dibattito sull'articolo 18. Professioni, una svolta in tre tappe, così il titolo di apertura del Sole 24 Ore, edizione del lunedì. Ed eccoli qui, una società per ridurre il debito, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, con un articolo di Massimo Mucchetti che vedremo. E poi l'articolo 18, per Repubblica, lavoro, scontro sull'articolo 18, La Stampa, Monti, articolo 18, niente tabù. Il secolo XIX, Monti, no ai tabù sull'articolo 18. Il Messaggero, Monti, no a tabù sul lavoro. Mentre l'Unità, clandestini a bordo, è la nave Concordia, il titolo d'apertura, mentre il giornale Monti occupa la TV. Questo è il titolo del giornale. Allora, la questione riforma del lavoro, articolo 18, la vedremo più avanti. Intanto, le segnalazioni da cui voglio partire, la prima è questa. Ricordate, se ne è occupata anche Radio 24, della vicenda di un pakistano residente in Italia da 15 anni che ha chiesto di fare il servizio civile volontario e ha avuto ragione, si è rivolto al tribunale. La Stampa, però, a pagina 20, racconta che l'aver dato ragione a questo cittadino ha creato un problema non di poco conto. Servizio civile a rischio per migliaia di volontari. È Giacomo Galeazzi che ne scrive. È caos nella galassia no profit. 18.000 volontari sarebbero dovuti entrare in servizio a inizio febbraio, ma le loro aspirazioni sono al momento bloccate. Infatti Syed Shahzar Tanwir, 26enne, pakistano residente in Italia da 3 lustri, ha fatto ricorso contro la sua esclusione dal servizio civile volontario. Il Tribunale del Lavoro di Milano gli ha dato ragione, ha riconosciuto la discriminazione contenuta nei criteri di selezione, ha intimato al Ministero per la Cooperazione e l'Integrazione la riedizione del bando 2011. Effetto collaterale di tutto questo, centinaia di enti non potranno avvalersi di 18.000 volontari che dovevano partire a giorni. Per alcuni è già stato emesso il biglietto aereo e tutto, le destinazioni eccetera, perché appunto c'è la riedizione del bando e dunque tutto bloccato. C'è chi sta cercando di discutere con questo giovane pakistano per fargli ritirare il ricorso. Alcuni stanno cercando di mettere una toppa in Parlamento per cercare di capire come fare. Sta di fatto che il ministro Andrea Riccardi sta raccogliendo il disagio, la rabbia, non tanto perché la sentenza sia sbagliata, se aveva diritto è giusto che questo cittadino pakistano abbia riconosciuto il suo diritto, ma per l'effetto collaterale che questo ha prodotto da parte di enti che si vedono ora bloccati. È un po' il paradosso dell'Italia, no? Si fa una cosa buona, magari una sentenza come in questo caso in cui un cittadino aveva fatto ricorso e ha ottenuto il suo diritto, visto riconosciuto il suo diritto a fare servizio civile, risultato collaterale, i bandi tutti da rifare, 18.000 volontari bloccati per una sentenza. Vi voglio dare anche questa segnalazione prima della pubblicità, È un articolo così, si può dire leggero, anche se il tema leggero non proprio, non lo è proprio, perché si parla di separazioni, si parla di divorzi. Ma siccome è un argomento molto popolare, perché riguarda tante persone, Repubblica, pagina 23, racconta la pubblicazione di una guida. Lasciatevi, ma con educazione. C'è pure ora il galateo del divorzio. E chi lo poteva fare se non i britannici? Eccola qui, la guida per chi si separa. Che poi fa veramente ridere a leggere i consigli. Niente insulti. Evitate gli insulti. Evitate inutili vendette. Ho capito, ma cioè, effettivamente anche Repubblica dice sono consigli che sembrano la scoperta dell'acqua calda. Sta di fatto che è nata la guida Debrett alla separazione civilizzata. Debrett è un editore e l'autore è uno specialista a livello internazionale, Michon de Reia, uno degli avvocati divorzisti più famosi del regno, tanto per citare una causa. È colui che difese la principessa Diana nella separazione dal principe Carlo e dunque vanta dalla principessa Diana anche una serie di illustri clienti. Cerchiamo di aiutare la gente con un processo passo per passo in quello che può risultare un campo minato. Questa è nell'introduzione. Ma sentite i consigli. Consigli per lasciarsi e divorziare in maniera civile. Beh, intanto i consigli come quando scegliersi l'avvocato, in che modo sceglierlo, le spese, eccetera. Poi i consigli psicologici, tipo non compiere inutili vendette. Per esempio, non tagliuzzate le cravatte di lui, o non gettate le scarpe di lei dalla finestra. Oppure non divorziate dai suoceri o dai parenti, anche da loro, che possono sempre tornare utili come mediatori. Non stressate gli amici parlando tutto il tempo del vostro divorzio, finireste per annoiarli e pensate a vivere il divorzio come un punto, non un fallimento, ma un punto di nuova ripartenza. Ma quella delle inutili vendette, di tagliuzzare, c'è ancora chi tagliuzza le cravatte, chi riga le macchine, chi lancia le scarpe da... vabbè, insomma... Quando sono le 7:33 minuti, eccoci qua allora. I giornali cosa propongono? Beh, la settimana entra nel vivo il tema, a partire da questa mattina, il tema del lavoro. Del mercato del lavoro, Francesca Barbieri racconta, pagina 7, quali sono i temi in agenda. Sul lavoro il confronto entra nel vivo, questo è il titolo dell'articolo del Sole 24 Ore. Appuntamento questa mattina a Palazzo Chigi alle 10 col governo che apre il tavolo con le parti sociali, riforma del lavoro in una prospettiva di crescita, questo è il tema molto molto delicato, gli obiettivi chiari sono ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, favorire l'ingresso di nuovi giovani con un pacchetto rivolto alla prospettiva di aumentare la competitività dell'economia. Il modello a cui si fa riferimento è quello della Flex Security, con interventi di pari passo sull'universo degli ammortizzatori sociali, l'obiettivo di creare le condizioni per una maggiore mobilità, insomma tutti obiettivi molto molto ambiziosi. Il risultato invece dell'intervista di ieri del Premier Monti da Luciano Nunziata in mezz'ora, io francamente lo dico, è una cosa, un dibattito noioso, perché impostato così poi sui giornali non porta mai, mai a nulla. È tornato l'articolo 18, nel senso che è bastato citare l'articolo 18, non è un tabù, e voi vedrete i giornali che si esercitano tutti su questo tema, come se fosse questo il tema del mercato del lavoro, è uno dei temi, ma voglio dire partire da qui, ecco, tutti i giornali, Monti, l'articolo 18 non è un tabù, e allora via, anch'io do la carrellata di solite dichiarazioni. Il leader della CISL, Bonanni, viene intervistato a pagina 2 del Corriere della Sera da Roberto Bagnoli. Riguardo all'articolo 18, basta con le ossessioni, dice Bonanni. Questa storia non può diventare un'ossessione, infatti lo capiscono tutti. Se usato ideologicamente per alimentare contrapposizioni non si arriva da nessuna parte. Fa solo il gioco di chi vuole una piazza arroventata. La formula per Bonagna è quella dell'apprendistato, la si può rafforzare negli incentivi a favore delle imprese, nella formazione effettiva, nell'esito finale che al termine del triennio deve portare. E in pratica, chiede Bagnoli, l'apprendistato prevede la sospensione dell'articolo 18 per i primi 3 anni, per cui l'intesa di massima in sostanza esiste, abbiamo capito bene? Certo, è così. Poi noi diciamo, come si legge nel documento unitario e come ribadisce la Commissione europea, che il contratto a tempo indeterminato deve essere lo strumento più diffuso. E allora, Bonanni e poi... la leader della CGIL, Susanna Camusso, fa 2 interviste sia a Repubblica. L'articolo 18 è un pilastro di civiltà, Palazzo Chigi non lo modificherà. L'articolo e l'intervista di Roberto Mania. L'articolo 18, guardi, dietro a questo giochino di dire che l'articolo 18 non deve essere un tabù, si nasconde l'idea che non condividiamo e non condivideremo, secondo la quale per combattere il dualismo nel nostro mercato del lavoro si debba intervenire sulle tutele di chi è già occupato. L'articolo 18 non può essere un tema di discussione né in partenza del negoziato né a conclusione del negoziato. Perché l'articolo 18, continua la Camusso, ha una funzione deterrente, continua a pensare che sia una norma di civiltà, anche se a qualcuno dà fastidio. I destini economici di un'impresa si possono affrontare in tante maniere senza intaccare i diritti di chi lavora. L'articolo 18 dice che non si può usare il potere maggiore che hanno le imprese per discriminare le persone. Viene intervistata anche dalla Stampa, pagina 3. E al secolo XIX, anche ai nostri microfoni poco fa, il leader della UIL invece, Luigi Angeletti, anche sull'articolo 18, figuriamoci se è un tabù, noi non abbiamo alcun tabù, semmai abbiamo delle ragioni, dunque non vedo il problema, siamo però disposti a spiegare in maniera esaustiva le nostre ragioni. Per esempio, non si può licenziare le persone senza un motivo, e su questo punto è chiaro che il tema della flessibilità non c'entra. Insomma, come vedete, un tema importante, quello della riforma del lavoro, ampio, che coinvolge diversi punti importanti, subito ci si è tuffati nella solita polemica con interviste, controinterviste, interventi, repliche sull'articolo 18, cioè su uno dei punti, certo, uno dei punti importanti della riforma del mercato del lavoro, però... erano passate 2 settimane dopo l'intervista al ministro Fornero con tutto il bailam sull'articolo 18, ne sono passate altre 2, è bastato appunto il premier Monti che dicesse l'articolo 18 non è un tabù ed ecco subito ripartire tutto il tormentone articolo 18. In realtà la Stampa racconta a pagina 3 nell'articolo di Fabio Martini che il governo avrebbe allo studio una mossa segreta, le cause di lavoro lampo. Di cosa si tratta? Dietro le quinte starebbe maturando una novità. Interessante, la stanno elaborando il ministro Fornero e i suoi tecnici, riguarda i lunghi contenziosi susseguenti alle cause da licenziamento regolate dall'articolo 18 per l'appunto. Si sta studiando, cioè, la possibilità di formalizzare procedure accorciate che consentano di abbreviare drasticamente i tempi delle cause da lavoro che attualmente si prolungano fino a 5-6 anni, con costi per le aziende e incertezze per il lavoratore. Dunque l'idea è quella di andare verso tempi e risarcimenti standardizzati. Non è ancora chiaro se affidando il contenzioso a sezioni specializzate della magistratura, ma questa potrebbe essere un'ipotesi. Una soluzione che potrebbe andare bene sia alle imprese e che ai sindacati sulla base dei primi contatti informali con le parti sociali. Dunque, creare, questa potrebbe essere un'ipotesi, affidare il contenzioso per i licenziamenti in cui è coinvolto la questione dell'articolo 18 a sezioni specializzate della magistratura in modo da ridurre i tempi in media fino a 5, che arrivano fino a 5-6 anni. Sull'articolo 18 anche Rosi Bindi, presidente del Partito Democratico, intervistata da Federica Fantozzi sull'Unità. L'articolo 18, la priorità è il precariato, il governo deve rafforzare le liberalizzazioni. Questo il messaggio di Rosi Bindi. Insomma, non so se trovate questo tema importante, certo, ma un pochino noioso, almeno nel dibattito dei giornali, questo permettetemi dirlo, io lo trovo così. L'altro tema che ancora c'è sui giornali è ovviamente quello delle liberalizzazioni sul doppio fronte. Intanto il fatto che è stato approvato questo decreto in Consiglio dei Ministri, ma oggi magari vi sveglierete e già troverete un bel blocco. Intanto i taxi, oggi è il giorno dello sciopero annunciato e confermato dei taxi, quindi eccoli là. E poi ci sono autotrasportatori che bloccano in alcuni punti, i forconi si sono spostati dalla Sicilia, stanno salendo su un po' per bloccare altri punti. Ci sono sempre 10 giorni che ballano e che incombono di sciopero dei benzinai. Insomma, diciamo che è un'Italia che reagisce in alcune categorie bloccando con agitazioni le liberalizzazioni volute dal Premier Monti e dal governo Monti. Sta di fatto che le professioni sono state molto toccate da questo tema, e su questo ci concentra il Sole 24 Ore, è il titolo di apertura del Sole. Professioni, una svolta in 3 tappe, trovate tutti i dettagli a pagina 3 nell'articolo di Andrea Maria Candidi, riforma a tappe per le professioni. Sono 3 i temi, vale a dire l'accesso intanto alla professione, le tariffe, anche la questione delle tariffe, che sono anche queste sono state toccate, visto che sono state tolte, l'accesso alle professioni. Appunto, altra rilevante caratteristica delle professioni del futuro è la pubblicità, racconta il Sole 24 Ore. Il regolamento atteso per agosto dovrà disciplinare la materia della promozione dell'attività professionale svolta anche in forma associata. Dunque c'è anche la questione della pubblicità. E poi c'è, come si pone il Corriere della Sera, pagina 3, il dibattito: come voterà il deputato se è notaio o farmacista? Adesso questo decreto dovrà essere votato dal Parlamento, e allora sappiamo che in Parlamento ci sono tanti rappresentanti, soprattutto avvocati, ma anche notai, ci sono anche farmacisti. Per esempio, già ha tuonato il questore della Camera Antonio Mazzocchi, che tra l'altro sarà il nostro ospite alle 8:30, avvocato: parliamo delle lobby vere, banchieri e professori della Bocconi. Oppure Lettieri, che è farmacista: sono amareggiato per la manipolazione mediatica e questa voglia di vendetta, l'enfatizzazione di presunte lobby. Cosa faranno i parlamentari, che sono anche al tempo stesso espressione di alcune categorie professionali? Gli avvocati, che sono abbastanza sul piede di guerra. Che farà il foltissimo gruppo di avvocati onorevoli quando si tratterà di votare alla Camera? Basterà aspettare qualche giorno. Mentre, sempre per le ipotesi allo studio, Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera racconta invece un'altra ipotesi allo studio del governo Monti, che dà spunto anche a fare il titolo principale di prima pagina del Corriere della Sera, vale a dire una società per ridurre il debito. E il tema è questo: come ridurre il debito pubblico, 1.905 miliardi, e al tempo stesso favorire la crescita dell'economia in attesa dei benefici effetti delle liberalizzazioni stimati dagli ottimisti nell'1,5% del prodotto interno lordo. Questa la sfida alla quale sta pensando il ministro dello sviluppo Corrado Passera. Ebbene, oltre ad aver annunciato il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione, circa 70 miliardi attraverso nuovi BOT, l'idea è di come abbattere questo macigno del debito pubblico. È un soggetto che è la Cassa Depositi e Prestiti, una società per azioni controllata al 70% dallo Stato, al 30% da 65 fondazioni bancarie. L'idea è quella di trasferire a pagamento partecipazioni e aziende pubbliche alla Cassa Depositi e Prestiti, appunto. L'idea dunque prevalente, scrive Massimo Mucchetti a pagina 4 del Corriere della Sera, consiste nell'acquisto di partecipazione azionaria del Ministero dell'Economia da parte della Cassa Depositi e Prestiti. In prima battuta lo Stato potrebbe cedere pacchetti azionari fino a 50 miliardi, e sono in corso già valutazioni di società assai floride come Sace e Fintecna, ma anche di molto altro. Cosa possono valere per esempio le Ferrovie dello Stato con la loro rete? Quale potrebbe essere il prezzo dell'ANAS ove potesse mettere a pedaggio alcune autostrade oggi gratuite? ovvero riprendersi le concessioni in scadenza, ovvero ancora allungare le concessioni in vigore facendosi debitamente pagare dai concessionari. Insomma, il piano per tagliare il debito è parte delle società pubbliche alla cassa depositi e prestiti, e SACE e Fintecna sarebbero le due società che Massimo Mucchetti dice sulle quali il governo sta già studiando questo dossier. Staremo a vedere se questa ipotesi si concretizzerà. E intanto la politica che fa? Intanto la politica, appunto, si interroga su questo decreto liberalizzazioni, e secondo il giornale Berlusconi prende tempo, resa dei conti a marzo. Berlusconi avrebbe dato questo spunto, questa idea, e cioè appunto la resa dei conti a marzo. Aspettiamo 2 o 3 mesi e poi vediamo che cosa succederà. Tra marzo e aprile tireremo le somme, e anche c'è una frase dell'ex ministro La Russa che dichiara così: non abbiamo mai detto che si andrà avanti fino al 2013 con Monti. Mentre invece la politica, certo, si concentra soprattutto su quello che ha fatto la Lega. Ieri i leghisti si sono trovati, i militanti, in Piazza Duomo a Milano. Si temeva molto spaccature, si parlava di possibili spaccature molto forti. Certo, i maroniani, i bossiani, alla fine ha parlato solo Bossi. Tutti i giornali fanno notare che Bossi è stato anche fischiato in alcune occasioni, e poi c'è stato questo ricatto molto molto esplicito dello stesso leader leghista, che è anche il titolo d'apertura della Padania che oggi esce in edizione straordinaria lunedì: mollare Monti o cade la Lombardia. Eccolo qui il ricatto, cioè o il governo Monti viene fatto cadere da Berlusconi, cioè Berlusconi fai cadere il governo, oppure facciamo cadere il governo in Lombardia. È un ricatto politico molto molto esplicito, anche per il Corriere. Bossi a Berlusconi lascia il governo, mentre la Repubblica fa notare invece il fatto che Bossi nega la parola a Maroni, la base lo fischia e invoca Bobo. Insomma, la spaccatura all'interno della Lega rimane. Ci sono ovviamente le reazioni politiche anche per esempio di Maurizio Lupi, deputato del Popolo della Libertà, che dice è un linguaggio da comizio, basta ricatti, e basta ricatti lo dice anche lo stesso leader della Lombardia Formigoni, intervistato da Marco Alfieri sulla Stampa a pagina 9. Basta questa logica del ricatto, non è interesse di nessuno innescare reazioni a catena che metterebbero a rischio diverse amministrazioni del nord, così ha detto Formigoni. La cronaca invece, la cronaca è sempre la notizia principe, la vicenda della Concordia, la tragedia della Concordia. Le notizie che trovate più sviluppate sono il fatto che c'è il giallo ora del portatile, un computer che Schettino, il comandante, ha portato sull'isola del Giglio scendendo dalla nave Concordia, e che è stato consegnato a una donna, definita donna misteriosa, senza volto, una bionda che si è presentata come legale della Costa dell'armatore nell'albergo dove era Schettino, e di fatto è stato dato il PC a questa signora. E ovviamente i giornali si chiedono come mai, cioè questo computer, che fine abbia fatto questo computer. Il secondo giallo è quello sul quale ha puntato l'accento il capo della protezione civile Gabrielli, cioè c'è la possibilità che ci fossero a bordo dei clandestini, dove per clandestini bisogna intendere persone che non erano registrate, persone che erano a bordo nonostante non dovessero esserci. Ebbene, c'è il giallo di questa ungherese, perché è arrivata dall'Ungheria una segnalazione di familiari che dicono: c'era una ragazza a bordo, c'era la nostra figlia a bordo, ci ha telefonato dicendo sono a bordo di questa crociera, ma in realtà questa ragazza non risulta. Il Secolo XIX con Matteo Indice a pagina 8 è molto esplicito nel titolare. Questa ragazza dice: sono in vacanza, sono salita sulla nave insieme a un ufficiale, scomparsa l'amica clandestina dell'ufficiale. Questo è il titolo del Secolo XIX a pagina 8. E poi come potevano mancare sempre di più i turisti dell'orrore, come vogliamo definire? A me devo dire, ieri li ho visti intervistati, non è che mi abbia sconvolto più di tanto. Certo, fa un po' effetto, però addirittura c'è un giornalista che dice: ma lei è venuto qui a fare una foto, sa che così ostacola le ricerche? In quel momento mi sono sentito vicino al turista che è venuto, che ricerche ostacola se va lì a fare una foto? Non ostacola la ricerca tanto quanto l'intervistatore che è lì a fare una domanda. Sta di fatto che c'è questo turismo. Vederla da qui meglio di un film, una domenica da turisti dell'orrore, così titola a pagina 10 Il Messaggero, un articolo sulle frotte di turisti con passeggini che si mette sugli scogli, sullo sfondo c'è la Concordia quasi spiaggiata, una foto ricordo e via. Insomma, succede anche questo. Ho un minuto per chiudere. Vi segnalo solo, non c'è tempo, un'intervista al presidente afghano Hamid Karzai, intervistato dal Corriere della Sera da Davide Frattini a pagina 15. Il titolo dell'intervista è: potete ritirarvi prima del 2014, noi siamo pronti. Interessante come sguardo internazionale, ve lo segnalo. Così come sul Corriere della Sera, pagina 5, c'è l'idea del governo Monti di rinunciare alla candidatura delle Olimpiadi di Roma del 2020. Attenzione, rinviare le Olimpiadi di 4 anni è l'idea diplomatica del governo. Monti sarebbe scettico sulla possibilità di organizzare le Olimpiadi a Roma per il 2020 e quindi l'ipotesi è quella di spostare, candidando Roma 4 anni più tardi, nel 2024, tra l'altro in una data che cadrebbe a ridosso del giubileo del 2025. L'articolo di Sergio Rizzo a pagina 5 racconta questa ipotesi che si starebbe affacciando nel governo. Che dire, devo chiudere col titolo della Gazzetta dello Sport? Ma sì, dai, Ibra Cadabra, il Milan c'è, bello quel gol di tacco, vabbè, ma era il 3-0. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo qui alle 8:22. Allora, siamo all'indomani della manifestazione della Lega a Milano, per questo saluto il sindaco di Verona, Flavio Tosi, della Lega. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a voi. Senta, oggi La Padania, che esce in edizione straordinaria, titola con questo che qualcuno ha definito un vero e proprio ricatto: mollare Monti o cade la Lombardia. Lei condivide questo ricatto politico di Bossi? Ma ricatto politico, poi bisogna vedere in concreto cosa accadrà. Credo che la cosa opportuna, al di là del tono un po' forte, ma nei comizi il tono forte ci sta, sia stato quello di sollevare il problema politico dei tanti, a sto punto forse troppi, scandali che stanno coinvolgendo l'amministrazione regionale o comunque dei consiglieri regionali, perché rischia di diventare imbarazzante, insomma, sta cosa. Sono indagini per reati odiosi e cominciano a diventare un po' troppe. Beh, non sono vicende, Formigoni dice sono vicende personali, lei invece dice sono vicende che coinvolgono troppo da vicino la giunta. Alcune che coinvolgono direttamente l'attività dell'amministrazione regionale, alcune non in maniera diretta, ma comunque sono vicende, non è una bega personale fra vicini per il confine della terra, insomma sono cose comunque che gettano cattiva luce complessivamente sull'amministrazione. E quindi forse un problema politico si deve porre, cioè Formigoni magari un po' di chiarezza all'interno la deve fare. Questo sì, però uno, non so, ha un problema politico, esce dalla giunta, ma questa idea fai cadere Monti a Roma e se no noi facciamo cadere la Lombardia, e questo effettivamente è una cosa nuova, molto molto... Ma diciamo così che sì, metti che, però il problema qual è? Noi siamo in amministrazione insieme a loro in tante realtà anche importanti, appunto come la Lombardia stessa, come il Veneto, come il Piemonte e anche in tante città. A Roma loro hanno una posizione completamente diversa dalla nostra, e il problema non sarebbe solo tanto questo, ma il fatto che per esempio votando la manovra Monti hanno votato per reintrodurre la tassazione sulla prima casa, hanno votato il più pesante taglio agli enti locali che sia mai stato praticato fino adesso, e questo è il contrario, l'esatto contrario di quello che facevamo quando stavamo assieme a loro. E quindi c'è un problema a spiegare sul territorio alla nostra gente che si governa assieme a livello locale, e a livello nazionale loro fanno l'esatto contrario di quello che facciamo insieme a livello locale. Quindi c'è un problema di Berlusconi che dovrebbe essere un po' più lineare in queste scelte. Ma tra l'altro lei all'inizio non aveva dato anche abbastanza credito al governo Monti, dicendo non è detto che debba cadere subito, vediamo. Adesso è dello stesso parere, oppure secondo lei insomma Bossi ha definito infame questo governo? Guardi, io la guardo dal punto di vista dei numeri. Come sindaco alla mia città, questa manovra costa al comune 50 milioni di euro, ai cittadini ne costa più di 70, quindi la manovra più pesante che sia mai stata varata da anni a questa parte. Io per carità spero ancora, ma comincio a essere pessimista, che Monti avesse il coraggio di mettere mano alla spesa pubblica, perché se non mette mano alla spesa pubblica non se ne viene fuori, non è aumentando il numero di licenze dei taxi, delle farmacie, liberalizzando le aree dei negozi, il numero dei notai. Quello non cambia la vita delle persone, non cambia l'economia del paese. Bisogna mettere mano alla spesa pubblica. Io lo spero ancora che abbia il coraggio di farlo. Fino adesso ha fatto delle cose, per così dire, banali, cioè aumentare le tasse a tutti non è che fosse difficile, non serviva il governo tecnico. Io speravo che il governo tecnico facesse qualcosa di realmente coraggioso. Questo sono deluso. E su questo è deluso. L'aggettivo infame è un aggettivo da comizio? È un aggettivo da comizio, chiaramente. È un aggettivo da comizio in riferimento a scelte appunto pesanti per le famiglie, per le imprese fatte dal governo. Poi penso che nella persona di Mario Monti e di tanti suoi ministri il rispetto e la stima personale ci sia comunque, ci mancherebbe. Senta, non ci racconta anche lei la favoletta della Lega tutta unita? La Lega è un po' spaccata, c'è questa cosa Bossiani, Maroniani. No, diciamo che la Lega la siamo tutti con il segretario federale, perché nessuno lo mette in discussione. Che ci sia della dialettica interna, che ci sia bisogno dei congressi, questo sì, perché la situazione è cambiata, c'è chi magari è più vicino all'idea di stare con Berlusconi, chi meno, chi propende per una linea, chi per una linea diversa, proprio perché appunto la situazione nazionale è cambiata drasticamente. E quindi rispetto a questi cambiamenti e al dibattito interno che era ovvio che ci fosse, è chiaro che servono i congressi. Con i congressi i militanti decidono la linea, decidono la classe dirigente e poi si va avanti più sereni. La classe dirigente vuol dire anche pensare, ipotizzare, lo so che è un tabù, un successore a Umberto Bossi, un domani. Intanto sono stati decisi i congressi dei livelli inferiori, quindi il livello provinciale e i livelli regionali, che già comunque pesano, perché comunque sono nella Lega un movimento a matrice federalista, quindi questi pesano. Dopodiché se decideranno a Milano di fare anche un congresso federale, il congresso federale elegge il segretario federale. Fino adesso è stato eletto sempre Bossi per acclamazione, la prossima volta non lo so, perché in democrazia ci sono i candidati e poi si vota. Quando dovrebbe essere? Cioè, secondo lei è opportuno allora farlo? Entro giugno i congressi regionali, giugno, dopodiché, dopo di quella fase sarà a Milano la segreteria politica federale a dover valutare se fare un congresso federale. Se farlo o no, secondo lei sarebbe opportuno? Oppure secondo me già comunque sbloccare la situazione a livello regionale incide molto, perché per come è organizzata la Lega rispetto agli altri partiti, dove la cosa è molto diversa. Da noi le segreterie, che noi chiamiamo nazionali, hanno un peso molto rilevante su tutte le scelte. Dopodiché, se se ne vorrà fare uno federale, quantomeno per dare una linea sulle politiche nazionali, quello male potrebbe non fare. Senta, un'ultima cosa, mi pare che proprio oggi lei presenterà la lista civica per le prossime amministrative. Assolutamente, sì. Non presento la lista nel senso dei nomi. Dei nomi, apriamo la campagna elettorale oggi come lista e domenica prossima come Lega Nord. Ma col PDL o no? Diciamo che quello non è ancora stato stabilito. In linea di massima troverei più probabile e più logico correre senza PDL, sia per quella che è la situazione nazionale, sia perché all'interno del PDL a livello locale ci sono state delle fortissime frizioni. Con una parte del PDL abbiamo dialogato e lavorato e lavoriamo benissimo, con un'altra parte decisamente molto meno, e quindi forse è il caso di, proprio per un fatto di coerenza verso l'elettorato e nell'interesse della città, di ripartire con la squadra con la quale si è lavorato bene, con quelli che sono una parte del PDL significativa, con quelli che si sono comportati in maniera non coerente rispetto al mandato, con quelli sinceramente farei molto volentieri a meno, e quindi può darci che non si corra assieme al PDL anche proprio per questo tipo di situazione, non solo per quella nazionale. Cioè, quindi alcuni sì, magari all'interno di una lista, però una coalizione. Direi che questa è la prospettiva più logica per la città. Va bene, io la ringrazio intanto, sindaco, la lascio i suoi impegni, grazie per essere stato con noi, sindaco di Verona Flavio Tosi della Lega. Insomma, sia la questione nazionale ma anche locale, avete sentito, su Verona, dove si vota la prossima primavera. Noi avevamo promesso, se troveremo i parlamentari che hanno fatto ricorso sull'annunciato taglio dei loro stessi vitalizi, e fanno ricorso mica al TAR, fanno ricorsi ad organi interni della Camera, sono parlamentari che giudicano altri parlamentari, si chiama autodichia, un termine abominevole, che vuol dire in pratica che si autogovernano, e autonomia giudiziaria anche. E allora l'abbiamo trovato un onorevole, parleremo di questa vicenda, torneremo sui vitalizi e i ricorsi dei parlamentari al taglio dei loro vitalizi. 24 mattino. Allora, alle 8:36 minuti, vogliamo parlare di costi, di Parlamento, di casta, noi la mettiamo sempre questo termine, facciamo un po' del sano qualunquismo. Insomma, l'ultima vicenda di cui ci eravamo già occupati venerdì è questa vicenda che riguarda i vitalizi dei parlamentari, ma non solo, c'è anche tutta una questione che riguarda i collaboratori dei parlamentari. Insomma, questo è il menù, e voglio salutare uno dei questori della Camera, l'onorevole Antonio Mazzocchi. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a me, radioascoltatori. Così come saluto l'onorevole Roberto Rosso, buongiorno, ex sottosegretario. E saluto anche Emiliano Boschetto, che è portavoce dei collaboratori dei parlamentari di Camera e Senato. Buongiorno, Boschetto. E guai, la sentiamo malissimo, adesso miglioriamo l'audio. E guai a chiamarvi portaborse, so che vi arrabbiate, giustamente, insomma, venite definiti così, ma insomma siete collaboratori dei parlamentari. Prima però vorrei dall'onorevole Roberto Rosso questa vicenda dei vitalizi di cui noi ci siamo occupati, cioè abbiamo scoperto di vari deputati, circa 18, che hanno fatto ricorso a questo organo, il Consiglio di Giurisdizione, un organo interno, un organismo interno della Camera, contro la delibera che prevede, la faccio molto breve, che si vada in pensione, che si riceva il vitalizio solo dai 60 anni in su, prima invece era anche dai 50 anni. Onorevole Rosso, lei è uno di quei ricorrenti, lo può confermare? Sì, sì, io sono uno di quelli, per una ragione molto semplice. Io, quando entrai alla Camera, 5 legislature fa ormai, ero poco più che un ragazzo da 32 anni, decisi, per rispetto al nuovo incarico che venivo ad assumere, di non guadagnare un secondo reddito, e mi tolsi dall'albo degli avvocati per rinunciare sia al reddito di avvocato sia alla pensione che avrei potuto guadagnare. Clamoroso, lei è uno dei pochissimi, cioè siete pieni di avvocati, siete. Sì, mi sembrava corretto e doveroso che, facendo un nuovo mestiere, non dovesse andare a accumulare una pensione, un trattamento pensionistico aggiuntivo a quello che già mi veniva corrisposto. Cosa succede? Che in base al vecchio regolamento, che della verità cambiò poi già nel 1998, ma io ero ancora nel 1994 deputato, e quindi valeva per me il vecchio regime, io avrei potuto andare in pensione a 50 anni. Ho maturato questo diritto, cioè questo è il fatto vero, sì. Ho maturato questo diritto, io oggi ho 51 anni. Acquisito. Cosa è successo? Ho acquisito questo diritto. Cosa è successo? Che, contrariamente a quanto succede in Italia, per ogni categoria di cittadino e di lavoratore, per cui i diritti acquisiti non possono essere toccati, sì. Questo lo dice la Corte Costituzionale, lo dice la Corte Cassazione, lo dice la Corte dell'AIA. Ebbene, l'Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso, con una decisione evidentemente illegittima, di negare i diritti acquisiti a noi che siamo parlamentari. Cioè, i parlamentari sono più diversi degli altri, ma in negativo, lei dice. esatto. Questa allora, è un po' dura da sostenere. No, è vero così. Però mi scusi, sono cambiate le cose. Le dico anche un'altra cosa. Siamo l'unica categoria di cittadini che paga le tasse al 63%, perché forse non si ricorderà, ma quest'estate il governo Berlusconi e Tremonti con lui decisero di mettere il massimale di imposta ai cittadini parlamentari, non al 43% come per tutti gli altri cittadini lavoratori, ma al 63% come solo per noi. Ma sta venendo a piangere miseria. No. Le dico soltanto che, a differenza di quanto sembra normalmente, ci sono norme anche discriminatorie in peggio per noi. Questo però, scusi, è cambiato tutto. C'è la crisi, l'avrà visto anche lei. Sono state tagliate le pensioni anche di chi guadagna 1000 euro al mese, anche quelli erano diritti acquisiti degli italiani. Sono state adeguate, insomma, non c'è l'indicizzazione, per esempio. Mi perdoni. Si è deciso per molti cittadini italiani di allungare il periodo di pensionamento e così è stato fatto anche per i parlamentari, giustamente. Non solo per i parlamentari, si è ritenuto correttamente anche questo di cambiare il regime che prima era retributivo in regime contributivo, come già succedeva. Ma scusi, ma che effetto fa dire un diritto acquisito? Cioè, capisce anche lei che andare in pensione a 50 anni era un privilegio insopportabile. Però lei dice. Lei faccia conto che il vitalizio non è un trattamento pensionistico normale, era la garanzia data a parlamentari che dopo 20 o 30 anni passati in Parlamento non si rimaneva completamente fuori dal lavoro. Anche dopo 5 perché anni prima. Lei faccia conto, sì, 5 anni per diverso. Cosa succede? Che se tu fai 20 anni, ecco, lei faccia il conto mio. Io ho scelto di non fare più l'avvocato. Sarà stato uno sbaglio, le dice, ma io credevo che fosse invece una virtù. Non cumulare pensioni e redditi. Succede che nel momento in cui dopo 20 anni uno deve reinserirsi al lavoro ha effettivamente un qualche problema di reinserimento. Però il reinserimento è un'altra cosa, c'è anche un assegno di reinserimento quando finite. 20 anni, allora, lei fa 20 anni il parlamentare e ha una pensione, capisce che è un privilegio. Tutti i cittadini, certo, così come è stato un privilegio la pensione di anzianità a tutti i cittadini che ne beneficiavano. Però non si è mai posto in questione per tutti coloro che hanno acquisito il diritto che la pensione di anzianità potesse valere. Non riesco a capire perché questo diritto, che è riconosciuto dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale, non valga per i parlamentari. Per tutti, tranne che per noi. Va bene, allora, onorevole Mazzocchi, intanto lei cosa ne pensa? Lei, non so, ha fatto ricorso, non lo vuole dire? No, io tra l'altro sono un parlamentare in carica. Come il collega Rosso, anch'io appena sono diventato parlamentare mi sono cancellato dall'ordine degli avvocati. Il collega Rosso solleva un problema giuridico che tra altre cose noi abbiamo una sezione giurisdizionale al Parlamento che affronterà in maniera molto pacata questo diritto che reclama sia Rosso che altri colleghi amici. Certo, l'ufficio di presidenza ha preso un provvedimento tenendo presente, come lei giustamente diceva, anche la situazione attuale, avevamo il presidente del Consiglio di giurisdizione consolo che ha detto a dir buoni è una scelta di cattivo gusto quella di fare ricorso, poi per carità magari il diritto. Io direi fermo restando che io posso condividere con il collega Rosso alcune sue impostazioni, è che il momento ci impone di fare alcuni sacrifici, per cui talvolta alcuni sacrifici vengono fatti anche, direi, non dico violando la legge, ma interpretando la legge in una certa maniera. È questa infatti la questione, una questione forse di opportunità. In ogni caso tra poco ci ritorneremo, vorrei anche coinvolgere Emiliano Boschetto per una vicenda diversa. Allora, Boschetto, quanti sono i collaboratori parlamentari di Camera e Senato che hanno un regolare contratto attualmente? Guardi, il dato ci sia solo per la Camera dei Deputati, perché il Senato, quanto ci risulta, non li ha resi noti. Per la Camera, le ultime stime pare che siano poco più di 230 collaboratori. Su 630? Sì. Cioè, accidenti, vuol dire 630 deputati, 230 collaboratori con un contratto regolare, il che vuol dire che gli altri che fanno? In nero? Sì, no, mi scusi, il contratto regolare è che tra l'altro la Camera non verifica che tipo di contratto sia, ma basta che sia vidimato da un consulente del lavoro, quindi c'è anche questa questione che magari affrontiamo. E vuol dire che ci sono 400 deputati che utilizzano il fondo di rappresentanza e segreteria in maniera diversa da quello a cui è destinato. A quanto ammonta questo fondo? Cioè ogni deputato prende quanto al mese? Attualmente i deputati prendono sui poco meno di 3.700 euro, i senatori poco meno di 4.200 euro. Cioè 3.700 euro che dovrebbero utilizzare per i loro collaboratori parlamentari e che invece, essendo molti in nero, cosa fanno? Danno 200 euro, 300 euro? Cioè come funziona? Guardi, la, proprio perché non esiste un po' una giungla contrattuale, non esiste purtroppo una definizione della nostra professione, è difficilissimo fare una casistica generale. Questo è già, diciamo, un problema, perché noi mediamente, diciamo, il contratto tipico per noi collaboratori, per chi ce l'ha ovviamente, è un contratto a progetto. E poi ci sono altre casistiche molto particolari, come qualche collega che ha un contratto da golf per avere un po' più di garanzie, che è un po' paradossale per gente qualificata. D'accordo. Sì, è successo che il deputato, per dargli più garanzie, non avendo un aggancio, diciamo, una figura professionale tipo, ha detto: vabbè, almeno ti do la tredicesima e un po' di ferie. Però okay. Per magari ragazzi che hanno laurea e master di secondo livello, sicuramente un aiuto a parte del deputato, però non è proprio un po' lesivo della dignità del lavoratore. Comunque questo è dato dal fatto che non c'è un inquadramento, diciamo, professionale, anche un reddito minimo riferibile a una professione che comunque sia qualificata, perché ecco l'immagine del vecchio portaborse ultimamente diciamo... Ma no, i collaboratori parlamentari, ma noi lo sappiamo, poi cioè chiamiamo poi voi quando dobbiamo raggiungere i parlamentari, so che fate comunicati stampa, fate lavoro, scrivete a volte anche le interrogazioni parlamentari, è un lavoro vero e proprio, anche molto tecnico, in cui bisogna essere preparati. So che questo sistema si sta studiando perché venga cambiato. Da qui ripartiamo dall'onorevole Mazzocchi dopo le informazioni sul traffico, perché insomma, com'è possibile che i deputati si intaschino 3.700 euro circa di media per i loro collaboratori, e poi, se sono in nero questi collaboratori, questi soldi che fanno? Se li tengono i parlamentari? Tra poco. Allora, onorevole Antonio Mazzocchi del Popolo della Libertà, prima non l'ho ricordato, così come Roberto Rosso, uno dei questori della Camera. Cambiamo questo sistema per cui i 3.700 euro non se li intascano i parlamentari? Guardi, bisogna innanzitutto correggere diciamo, una questione che sta, e purtroppo anche i giornali continuano a dire. Non esiste in Italia ancora una normativa che preveda il collaboratore parlamentare. Noi proprio per questo, poiché fatela, giustamente... accidenti, non esiste, cioè non fate una legge, siete voi che infatti, fate le leggi. Infatti, tenga presente che i 3.690 euro che vengono dati al deputato sono, direi, è un importo che viene dato per i rapporti che sul proprio collegio il deputato deve avere, cioè organizzare qualche manifestazione, sì, avere sì. uno studio e così via. Negli altri paesi, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, direttamente il Parlamento che assume, non uno, ma in Francia due assistenti parlamentari, e direttamente li paga. Questa potrebbe essere una formula, cioè il Parlamento paga direttamente il collaboratore, non è che infatti, gli dà... E infatti nell'ultimo ufficio di presidenza noi, proprio per la figura qualificata che debbono avere questi collaboratori, che spesso e volentieri quasi tutti sono deputati, e dei deputati, mi scusi, sono tutti laureati, abbiamo dato mandato all'ufficio, alla commissione lavoro presieduta da Lorena Moffa, di predisporre una proposta di legge che istituzionalizzi la figura del collaboratore, perché vede, a tutt'oggi 230 deputati hanno preso i collaboratori, sì. però con dei tratti che spesso giustamente hanno avuto poi dell'impugnativa a livello sì. giudiziario. Sì, ma lei giustamente dice, però stiamo parlando, voi siete i parlamentari, cioè coloro sì. che fanno le leggi, per cui lei dice non c'è una legge finora, ma fatela cipicchia, perché... Ma infatti lei giustamente sta facendo una domanda interessantissima, però che l'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha preceduto la sua domanda. L'altra settimana è stato mandato. Volendo però la vicenda precede anche l'iniziativa dell'ufficio di presidenza, nel senso che è una vicenda annosa. Ma è annosa perché, come le stavo spiegando poco fa, non è che c'è l'obbligo al parlamentare di assumere il collaboratore, anche perché, detto fra me e lei, sono alcuni partiti che hanno delle società di consulenza e offrono già al deputato la collaborazione, che le posso dire, per predisporre sì. una legge, sì. per fare un'interrogazione e così via. Ma diciamo, noi quello che vorremmo di base è che non ci fossero i collaboratori parlamentari in nero. Capisce? Cioè che nel luogo dove si fanno le leggi vengano rispettate le leggi. Ma non le dirò di più, non soltanto ci debbono stare in nero, ma poiché quasi tutti sono ragazzi laureati molto preparati, debbono avere una qualifica non da golf, come dicevo poco fa, dire da golf o robe genere, ma debbono avere una qualifica prevista da un'apposita legge. Mi lasci dare aspetti un ascoltatore, Maurizio dalla provincia di Latina, che ci ha chiamato, credo, sulla vicenda Vitalizzi, no? Vedo. Maurizio, buongiorno. Sì. Dica. Buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ospiti. domandavo questo e vorrei capire la ratio che c'è dietro la richiesta, fermo restando il caso particolare del suo ospite prima. Sì. Ci viene chiesto, e di questo sono responsabili gli ultimi 20 anni di governo, di fare dei sacrifici che ci porteranno a 70-80 anni in pensione. Sì. Con quale criterio viene garantito a 20 anni un vitalizio a un parlamentare quando io, che già ho 12 anni di attività, andrò in pensione se tutto va questo bene? Maurizio, questo Maurizio però è un altro discorso. Il criterio dell'onorevole Rosso è, discutiamo del fatto che sia un privilegio, però era un privilegio che avevo acquisito, ora me l'hanno tolto e questa cosa non si può fare da un punto di vista, può darsi che alla fine avrà anche ragione Maurizio, lei però contesta il fatto che 20 anni di politica diano una pensione. I responsabili sono anche quel signore che ha acquisito un privilegio in 20 anni, dove però la spesa pubblica ha galoppato, sì, e adesso si chiede agli italiani di mettere mano alle proprie tasche. Infatti la... anche quel signore ha acquisito un diritto non lavorando bene insieme a tutte le altre persone che per 20 anni hanno fatto galoppare. Su questo infatti tra poco risponderà l'onorevole Rosso, è la contestazione che gli ho fatto anch'io, cioè in un periodo di sacrifici appellarsi al diritto acquisito che è un privilegio acquisito magari stona un po', ma prima sentiamo anche Mimma da Milano, buongiorno. Buongiorno, beh anch'io volevo, sono d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore precedente, ma loro parlano di diritti acquisiti, e i nostri diritti acquisiti, i diritti acquisiti dei lavoratori che ogni volta governo dopo governo sono stati annullati, adesso poi hanno portato le pensioni a 67 anni e nessuno si può ribellare, e loro parlano di diritti acquisiti, ma non si vergogna sta gente? E poi dobbiamo parlare anche dei collaboratori. Il Parlamento, che dovrebbe essere la sede della legalità, commette delle illegalità, perché servirsi di una persona e non pagarla o pagarla in nero è vergognoso. Io non so come sia possibile una cosa del genere. Sentiamo, onorevole Rosso, lei prova vergogna per questa richiesta? La prima questione. La signora probabilmente non conosce la parola diritto acquisito, perché tutti coloro cui è stato allungato il trattamento pensionistico non avevano acquisito il diritto. Cioè, facciamo un esempio, io avevo diritto ad andare in pensione. Sì, questo è vero. Non è che hanno toccato le baby pensioni, Io avevo il diritto ad andare in pensione all'anzianità, sono l'operaio di una certa impresa, a 54 anni. A 55-56 ho fatto il diritto. Il governo non può allungarmi il diritto pensionistico, viceversa, ne avevo solo 53 anni, il Parlamento e il governo possono allungarmi il Sì, ma la signora parlava di vergogna, cioè anche Mazzocchi ha detto l'opportunità di questa cosa. Allora, il problema è che oggi, ancora oggi, un consigliere regionale, dopo 2 anni, 6 mesi e 1 giorno, acquisisce il diritto ad avere un trattamento vitalizio. Ce l'ha a 55-60 anni, secondo le cose, ma ce l'ha. In Parlamento si era deciso a partire dal 98 di portare il trattamento pensionistico a 60 e poi a 65 anni. Aveva lasciato per quelli che avevano già maturato il diritto la possibilità di andare a 50 anni. Potrà essere sbagliato, ma il problema vero è che questo è un diritto acquisito. Ma ho capito, ma d'accordo, ma su questo guardi che alla fine lei può darsi che avrà anche ragione, le daranno anche ragione. La domanda era se era opportuno questa cosa. Le sto dicendo che ho ragione, che è una cosa diversa, perché il problema vero è che potrà essere tanto prendere 5.000 euro al mese di stipendio, ma se questo è il mio diritto, io prendo 5.000 euro al mese di stipendio. Su questo abbiamo chiarito, onorevole Rosso, abbiamo chiarito che lei dice ho ragione, però la questione dell'opportunità, mi dica su questo se non prova vergogna. Provo assolutamente vergogna, non posso assolutamente vergogna, perché ritengo che dopo 25 anni di versamenti contributivi ci possa essere la possibilità, ci potesse essere un tempo la possibilità, cosa che oggi non c'è più, a maturare questo diritto. L'ho maturato, ho semplicemente fatto valere ciò che qualsiasi cittadino italiano nella mia condizione poteva far valere e qualsiasi giudice ordinario avrebbe potuto far valere. Sono molto preoccupato, le devo dire, di essere nelle mani di un personaggio come Consolo che dichiara il Corriere della Sera quello che dichiara, perché un giudice, perché lui in questo caso è un giudice, non è semplicemente un deputato che fa valere le sue idee, fa valere il diritto, non fa valere la sua opinione. E infatti, ma vedremo, ma vedremo, ma vedremo come andrà a finire, perché guardi che tanto lui spero che faccia valere il diritto. No, ma mi lasci finire, perché sennò se dopo sforo. Intanto vedremo su questa vicenda. Intanto io su questo devo dire la ringrazio, perché lei ci ha messo la faccia dicendo io ho fatto ricorso, sono 18 quelli che hanno fatto ricorso, lei l'ha detto, è qua a spiegarci il perché, altri non si capisce bene. Ringrazio lei, onorevole Roberto Rosso, come Antonio Mazzocchi e Emiliano Boschetto, portavoce dei collaboratori dei parlamentari di Camera e Senato, e ci troviamo domattina alle 7:20. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma. Io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.